suoi colli il politico stava come un dio sull'Olimpo, intoccabile. Il potere aveva trasformato le spinte ideali in volgari esigenze quotidiane, materiali. Per qualcuno il sol dell'avvenire era solo un accordo che si dovrà suonare. Per qualcun altro la lotta di classe era una battaglia fatta tirando caviale. È il potere che si rinnova, è sempre il solito spartito, la solita musica coi soliti accordi. E l'accordo c'era tra i partiti che si erano spartiti la tangente. Poi finirono sulla gogna, come la morte. Quel giorno sbagliato in cui si prese Fabrizio. Oddio! No! No, porca troia!